Siamo al telefono con Dario Belluccio dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, che innanzitutto saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, insieme a lei vorremmo approfondire il tema di questo codice di condotta elaborato per le ONG che effettuano salvataggio in mare. Abbiamo visto un comunicato dell'ASI che esprime critiche, quindi la prima cosa che le chiedo: quali sono i punti più critici di questo codice? Guardi, innanzitutto noi abbiamo steso un piccolo documento per ricordare quali sono innanzitutto le regole basilari, principali del diritto internazionale del mare in tema di ricerca e salvataggio delle persone. E abbiamo ritenuto necessario farlo perché da quando è stato reso pubblico il codice di condotta proposto dal Ministero dell'Interno alle ONG che operano nel Mediterraneo centrale, ci è sembrato che questo tema fosse stato completamente eluso e dunque ci sembrava doveroso porre l'attenzione su quelli che sono degli elementi fondamentali, perché poi queste regole del diritto internazionale del mare tendenzialmente riportano al centro dell'attenzione innanzitutto la salvaguardia della vita umana, che è qualcosa che non può certamente essere tralasciata. Quali sono le criticità maggiori? Innanzitutto devo dire che c'è già un codice di condotta di autoregolamentazione che le ONG hanno adottato in coordinamento con la Guardia Costiera, con il Comando di Guardia Costiera italiana, e questo è avvenuto molto recentemente nel 2017, e d'altra parte quello che dicono gli stessi ufficiali della Guardia Costiera anche in audizioni al Senato che ci sono state è che non vi sono delle problematiche relative al mancato rispetto della legge da parte delle ONG. Le criticità maggiori dove vengono poste? Innanzitutto lì dove l'Italia vuole regolare navi di bandiera italiana o bandiera di uno Stato altro nella attività di ingresso nelle acque territoriali altrui, in particolar modo nelle acque territoriali libiche. Questo è evidentemente impossibile perché l'Italia non ha giurisdizione in questo senso. Sarebbe come se la Francia volesse imporre ad una nave, il battente a bandiera americana, le regole per entrare nelle acque territoriali italiane, per intenderci, dunque qualcosa di incomprensibile. D'altra parte però questo fa emergere l'intenzione da parte del governo italiano di scaricare su organizzazioni non governative il peso e la responsabilità di operazioni di salvataggio che dovrebbero essere innanzitutto in capo alle istituzioni pubbliche italiane ed europee, e di farlo attraverso il restringimento di fatto delle persone in mano alle autorità, autorità libiche. E questo nel momento in cui anche la Corte Penale Internazionale ha avviato una indagine interna molto molto estesa su quelle che sono le condizioni che i migranti vivono in Libia. Dunque ci sembra che in mancanza di un'autorità costituita che possa essere un punto di riferimento in Libia questo sia impossibile. D'altra parte vi è un problema relativo alla corretta identificazione di ciò che si intende per soggetti che partecipano alle operazioni di ricerca e di salvataggio e per ciò che si intende per porto sicuro. Evidente bisogna comprendere, ma questo lo deve far comprendere innanzitutto il Ministero dell'Interno, se le autorità preposte a queste attività sono anche le autorità libiche o le attività tunisine o le autorità egiziane, perché questo cambierebbe radicalmente il quadro della situazione. Un'altra problematica specifica riguarda il divieto di trasbordo dalle navi più piccole alle navi più grandi. Questo viene fatto, questo divieto verrebbe imposto tendenzialmente per limitare l'attività dei vascelli più piccoli, i quali non avrebbero la capacità anche finanziaria di recuperare delle vite delle persone in mare e di portarle sempre appunto nel porto appunto più sicuro, perché questo costituirebbe appunto un costo eccessivo ed un pericolo per la stessa vita, diciamo, delle persone che sono state salvate, che in tante occasioni invece è opportuno che siano trasbordate, appunto portate su un vascello, su una nave più grande che abbia maggiore appunto capacità organizzativa. Poi c'è la questione appunto del personale, diciamo, di pubblica sicurezza e della possibilità appunto che questo appunto vada sulle navi battenti bandiera, in particolar modo, diciamo, quelle battenti bandiera straniera. Anche qui è impossibile appunto che ciò avvenga con personale, diciamo, armato senza un accordo, diciamo, tra i diversi stati. E innanzitutto poi bisognerebbe anche avere appunto il consenso appunto del capitano, diciamo, della nave, salvo che non si ritenga appunto che quella nave stia trasportando armi, in cui ovviamente, diciamo, la situazione appunto cambia. Ma anche lì bisognerebbe appunto regolare appunto meglio questa ipotesi, che mi risulti tutte le navi, anche delle ONG, che arrivino appunto nei porti, nel momento in cui ci deve essere un controllo appunto da parte delle autorità di polizia, fanno assolutamente, diciamo, di tutto per agevolare queste attività appunto di controllo. Ma ciò è una cosa, altro è dire che a tempo indeterminato e nel corso delle operazioni magari di salvataggio, comunque nel corso della navigazione, il capitano di una nave debba prendere a bordo della personale, dei funzionari, appunto di personale di polizia, eventualmente appunto armati, e magari anche per un giorno, due giorni o tre giorni. Ecco, questo è qualcosa di sensibilmente appunto differente da ciò che avviene nella pratica e che invece è assolutamente appunto il legittimo che viene fatto appunto, ripeto, da quanto mi risulta, sempre dalle ONG in coordinamento con le autorità del paese, in questo caso appunto dell'Italia, sia le autorità di guardia costiera sia le autorità di polizia. Certo, ecco, c'è un altro punto che assume una luce particolare considerando come negli ultimi tempi si è appunto parlato delle ONG, ovvero il divieto di fare telefonate o segnali luminosi per impedire appunto i contatti con i trafficanti. La sensazione è un po' che quella che è una bufala, perlomeno una supposizione non comprovata da fatti, da inchieste eccetera, sia diventata di fatto una verità che è inserita in un codice. Cosa ne pensa? Sì, effettivamente non c'è alcuna prova, perché anzi risulta il contrario, cioè risulta che sono sempre stati accesi, diciamo, gli strumenti per la rilevazione appunto delle posizioni, diciamo, delle navi da un lato, e dall'altro non è mai risultato che siano stati fatti dei segnali, diciamo, acustici, luminosi, diciamo, di altra natura per agevolare i contatti, per avere dei contatti con i trafficanti. Però appunto il fatto che si utilizzi appunto questo tema, ho paura, diciamo, che sia uno strumento per screditare le attività delle organizzazioni appunto non governative. Ora io vorrei, se possibile, appunto dire affermare questa cosa. Non è possibile, attraverso il controllo del mare o il controllo delle attività che si svolgono in mare, limitare la, come dire, relativa autonomia, diciamo, dei movimenti migratori. D'altra parte, vuol dire, non mi sembra neanche che l'ingresso di 150-180 mila persone all'anno appunto in un paese come l'Italia possa essere in qualche misura problematico. Ciò che è problematico e che le autorità dovrebbero però porre appunto in termini corretti, ciò che è problematico è il fatto che nel momento in cui le persone giungono in Italia e decidano di presentare una domanda di protezione internazionale, come effettivamente appunto sta avvenendo, debbano necessariamente rimanere nel paese di primo approccio. Cioè, ciò che è problematico è il regolamento Dublino. Allora, noi come ARGI abbiamo articolato una proposta alle istituzioni europee di modifica del regolamento Dublino, che è oggetto appunto di discussione in questi mesi, e abbiamo chiesto appunto che venga modificato radicalmente nella parte in cui si prevede che il paese competente a decidere della domanda di asilo di una persona sia il primo paese, diciamo, d'Europa in cui quella persona ha messo piede. Ci sembra che questo è il problema, diciamo, determinante, non il fatto che in Italia arrivino 150, 180, 200 mila persone, diciamo, all'anno, ma il fatto che siano destinati, diciamo, loro malgrado molto spesso, a dover rimanere in Italia per tutta la vita, o quasi. Certo. E questo, diciamo, che è problematico, cioè il centro, diciamo, di questa questione in realtà è altro, non è l'attività delle ONG, che fanno un'attività meritevole, salvano vite. Oggi succede a qualcuno, domani può succedere a me. Intendiamoci, io sono grato alle ONG che fanno questa attività insieme, diciamo, alle autorità pubbliche che svolgono appunto questa attività. Se lo facessero soltanto le autorità pubbliche, probabilmente appunto sarebbe meglio, ma dovrebbero dar prova di farlo effettivamente, altrimenti non possono limitare l'attività altrui. Certo. E il problema però appunto rimane non questo, cioè non quello delle attività appunto di il salvataggio in mare, bensì il problema, diciamo, dell'accoglienza delle persone nel momento in cui giungono in un determinato paese dell'Unione Europea. Quindi il problema è il regolamento Dublino.